si sposta di lato e in un altro si fa vedere più là. Vuole essere raggiunto e capito. Non c'è niente di perfetto, neanche dentro alla vetrina del negozio di giocattoli da bambini. Di una collezione, e i miei pugni più rompiti.